La mostra qui presentata è una scelta, diciamo, di una mostra più grande che abbiamo cominciato quasi 20 anni fa, di biografie, immagini di donne libertarie di vari paesi del mondo. Abbiamo cominciato con, credo, 25 pannelli, cioè 25 donne o gruppi di donne. Poi poco a poco il progetto si è allungato. Abbiamo fatto un elenco più o meno di 50-60 pannelli possibili, di cui avete qui una metà forse, di donne più rappresentative nella storia dell'anarchia. Non abbiamo messo, si potrebbe mettere ancora, le donne in nero, a cui vorrei rendere omaggio un po', perché mi sembra che negli ultimi anni sono questi gruppi di donne che non vengono dal movimento anarchico, che sono direttamente coinvolte contro le guerre, contro le catastrofe, e che difendono i figli, gli amici, i nipoti in tanti paesi del mondo, dall'Uruguay all'ex Jugoslavia e un po' dappertutto, con un grande coraggio, con manifestazioni di solidarietà che mi sembrano importanti. È una mostra su donne libertarie, non necessariamente su femministe, diciamo. Comunque c'è un legame stretto fra donne e femminismo. Diceva la francese Nelly Roussel un secolo fa: Io non conosco niente di più odioso, di più rivoltante di una donna che risponde quando le si parla di femminismo: il femminismo non mi interessa, non ne ho bisogno. I movimenti di donne libertarie ha cominciato, le prime tracce che abbiamo trovato sono nell'Argentina dell'890-95, con un periodico che si chiama La Voz de la Mujer, la voce della donna, col slogan «Né Dio, né padrone, né marito». Ma di loro non si conoscono alcuni nomi, ma niente biografie, sono tipicamente queste donne un po' anonime, perse nella storia, nel ricordo, che si dichiaravano a favore dell'amore libero, a favore del comunismo anarchico, e praticavano l'azione diretta, ma si sa pochissimo di loro. Dopo, nei primi anni del XX secolo, ci sono altri periodici di donne o femministi. Il più caro per me è L'Exploité della Margaret Fassardegger, che era una donna svizzera, prima segretaria sindacale all'Unione Sindacale Svizzera durante pochi anni, perché lei faceva più propaganda anarchica che sindacale, forse anche propaganda anticoncezionale, azione diretta, eccetera. E ha fatto questo periodo, dico, che trovate sul tavolo di là, L'Exploité, durante quasi 2 anni, insieme a un periodico parallelo in tedesco di Vorkämpferin. In America c'è stato The Woman Rebel, la donna ribelle, di Margaret Sanger, che è più conosciuta come propagandista e praticante della contraccezione e dell'aborto, però era anche a favore dell'organizzazione delle donne, organizzazione autonoma e soprattutto di donne di, in America, di tante culture e lingue diverse. Pubblicava anche articoli in italiano, in Yiddish, eccetera, eccetera. E scriveva, per esempio: le donne ribelli reclamano il diritto alla parità, il diritto di essere madri celibi, il diritto a distruggere, il diritto a creare, il diritto ad amare, il diritto di vivere. Nello stesso periodo, cioè prima della prima guerra mondiale, c'è stato anche un giornale in cinese pubblicato in Giappone, e un altro in giapponese. Poi nel 1936 arriva questo movimento più importante di Mujeres Libres, delle donne libere in Spagna. Avete sentito ieri sera parlare di loro. Tutti questi giornali sono giornali di propaganda, di organizzazione, di cultura, dalle donne per le donne. Sono un sforzo importante in un periodo dove le donne hanno poche possibilità di uscire dalla casa, anche se lavorano, di formare organizzazioni autonomi. Anche nel movimento anarchico non è sempre facile per le donne affermarsi. Cito la Rirette Maître Jean, che è un personaggio simpatico, un po' coinvolta con Azione Diretta, Banda Bono, eccetera, altre cose un po' illegali. Racconta nelle sue memorie: era sposata con il signore Maître Jean, poi ha avuto altri compagni. E scrive: per cominciare occorreva comunque che mi appiccicassi un'etichetta. Ero individualista o comunista? No, non avevo scelta. Coi comunisti la donna occupa un posto talmente inferiore che non le si rivolge mai la parola, neanche quando ci si mette insieme. Bisogna dire quello che con gli individualisti è quasi la stessa cosa. In breve, ho dato la mia preferenza all'individualismo. Non so perché, però. Dunque, queste donne che scrivono, la scelta che abbiamo fatto in questa mostra è di donne che hanno lasciato una traccia scritta, quasi tutte, a parte alcune come le donne della Comune di Parigi, che erano criminalizzate, come le pétroleuse, perché portavano il petrolio per riscaldare la casa o cucinare, ma erano criminalizzate come incendiarie. E quello, di quelle abbiamo solo le testimonianze ai processi, o altre anche, ma la maggior parte sono donne che hanno scritto o articoli, volantini, o libri, o memorie, eccetera, perché sono quelle, di quelle che abbiamo le tracce. È più difficile trovare tracce di movimenti, di organizzazioni. E si occupano ovviamente della condizione della donna, di come è difficile combinare lavoro, casa e militanza. Margaret Fass, per quello, è un po' emblematica quando scrive un manifesto del 1° maggio, scrivendo: avanti donne che lavorate nelle officine, nei laboratori e nelle case. È un po' la prima che parla anche di lavoro domestico come un vero lavoro. Prendetevi un giorno di libertà, smettete di lavorare, uscite dalle case che ci soffocano, dall'officina rumorosa, dal laboratorio pieno di polvere, dalla dimora col soffitto obliquo, usciamo tutte, prendiamo i nostri fili per mano e andiamo a sederci sui prati verdi vicino ai boschi e assieme ai compagni che pensano come noi e che desiderano quello che desideriamo noi, festeggiamo la giornata proletaria. C'è anche una bella, nello stesso spirito, una bella pagina dei marinai di Kronstadt nel 21, probabilmente, durante il sollevamento, l'insurrezione di Kronstadt in Russia, quando i marinai soldati avevano autogestito, diciamo, l'isola contro il potere centrale sovietico, hanno fatto un bel manifesto per l'8 marzo, che è un giorno tradizionale delle lotte delle donne, in ricordo a uno sciopero in America, e hanno fatto, probabilmente c'erano anche donne a Kronstadt, però di lei non si sa nessun nome, ma i bravi marinai e soldati hanno fatto questo manifesto indirizzato a tutte le donne del mondo, a tutte le operai del mondo, un messaggio di solidarietà quando loro stesso sono sotto le bombe, la mitraglia dell'esercito rosso, il compagno Trotsky. Dunque questa... Un po' più tardi c'è un movimento molto bello di sindacati di donne in Bolivia. Avete, non so dove, sarà qua dietro. Negli anni 30, la Federazione delle Artigiane e Artigiani, con gruppi di donne domestiche, fioriste, donne che vendono al mercato. È un'esperienza molto originale, non c'è paragone in altri paesi. C'è un libro di ricordi, di interviste di queste donne molto più tarde, che anche loro testimoniano della forza che dà l'organizzazione, il sindacato, i contatti entre donne, come cambia anche i rapporti in casa, nelle coppie, con i bambini. Sì, l'importanza di una struttura specifica di donne, che non è una struttura contro i maschili, ma che dà più forza alle donne che imparano a esprimersi, a parlare, a difendere i loro diritti, a agire di maniera autonoma. Ovviamente la questione sessuale, la questione della coppia è anche una preoccupazione comune a tutte queste donne, anche se hanno avvisi diversi, più o meno liberati, moderni, diciamo. Voltairine de Clare, un'americana, amica di Emma Goldman, scriveva, per esempio: la condizione sessuale è mille volte più importante per noi di ogni altra causa, per i divieti che la guidano, per il suo ruolo diretto nella nostra vita quotidiana, per i suoi prodigiosi misteri e per le pericolose conseguenze che vengono da una cattiva conoscenza che se ne ha. Parlano spesso a... sottovoce, che non possono, era sempre molto pericoloso di parlare apertamente di contraccezione, di aborto, Dunque si parla sempre sottovoce, con allusioni, per far capire alle altre donne che ci sono mezzi anticoncezionali, che ci sono possibilità di controllare la fertilità, di controllare i rapporti sessuali, ma si devono essere discreti perché di nuovo la criminalizzazione di tutte queste pratiche è stato per lungo pesante, severa, ci sono numerosi esempi di processi, di condannazioni, soprattutto di donne, ma anche di uomini che hanno partecipato, medici o compagni. E penso che per le generazioni di oggi, per i giovani adulti nella sala, è un po' difficile rendersi conto di questa situazione, ma anche noi quando eravamo ancora più giovani di oggi, non era così facile. E poi con interventi farmachimici pesanti, pericolosi, senza controllo il semplice controllo della donna sul suo corpo non era riconosciuto, è stato riconosciuto forse 30 anni fa, poco a poco. L'interdizione dell'aborto, l'interdizione della vasectomia per gli uomini è rimasta a lungo un atto criminale, sì. È durata a lungo, diciamo. Mm-hmm. La proibizione di queste cose è durata nel tempo. Sì, sì. Ma anche nella coppia, anche per esempio queste donne che avevano un compagno militante, anche loro avevano difficoltà a volte a far rispettare il loro diritto alla militanza, all'autonomia. Ci sono fortunatamente tanti esempi dove l'uomo ha la precedenza nella militanza e nell'autonomia, un po' come nella società. Beh, non ci sono miracoli, siamo esseri umani quasi normali. Ma anche dall'altro campo ci sono testimonianze di donne che hanno vissuto una... piuttosto le donne anziane scrivono più volentieri delle giovani, delle loro esperienze, della loro vita libera con vari compagni, parecchi amanti. È più facile, penso, che dopo... quando viene la vecchiaia, c'è una breve citazione di un articolo della mia madre, Marie-Christine, che scriveva: a 70 anni il peggio è passato. Dunque, cioè che possiamo... Lasciarsi andare, camminare senza problema sulla strada, di giorno, di notte, non c'è più problema. Ma anche parecchie di queste donne hanno un po' rinunciato, diciamo, alla loro femminilità o a una vita di donna in una coppia con bambini per dedicarsi alla rivoluzione. L'esempio di Louise Michel, che avete di là, è abbastanza conosciuto. Da un lato lei scriveva: se l'uguaglianza fra i sessi fosse riconosciuta, sarebbe una bella breccia nella stupidità umana. Ma dall'altro canto la stessa Louise Michel scriveva: È da molto che ho fatto il sacrificio di me stessa e che è passato il momento di decidere su quello che può essere piacevole o spiacevole. Non vedo altro che la rivoluzione. È lei sola che io servirò sempre, è lei che saluto, che possa essa sorgere sugli uomini invece che sulle rovine. Dunque la scelta è più presente, penso, per le donne che per gli uomini. Gli uomini non ne parlano poco o non ne parlano per nulla di decidere se vivere in coppia, se avere bambini. Non ho trovato esempi di uomini che dicono io non faccio figli perché devo essere libero per la rivoluzione. Invece le donne hanno presente questo problema. Io ho conosciuto personalmente donne sindacaliste, sindacati normali, che avevano anche loro rinunciato, diciamo, a una famiglia per dedicarsi alla bella famiglia sindacale rivoluzionaria. Nella Giacomelli, non so se l'avete messo da qualche parte, la questione sociale mi occupa molto, mi appassionò, ebbe la parte migliore di me. Refrattaria all'amore, diffidente verso gli uomini, senza curiosità per la vita che conoscevo troppo triste e ingiusta per tenerla cara, spesi tutte le energie d'animo ed intelletto nella propaganda. Questa energia, questa propaganda, anche se viene di un rifiuto di vita familiare, è spesso diretta all'educazione, perché le donne hanno sempre presente l'importanza dell'educazione, ma anche uomini. Certo che nella storia dell'anarchismo, del movimento anarchico, l'idea di educare bambini, adulti, uomini, donne, di coeducare, è sempre un impegno forte, una preoccupazione forte. Lo potete leggere per esempio sull'ultimo libro della Baronata di Francesco Codello o tanti altri scritti. Ma poi fanno anche propaganda per l'azione diretta, per l'auto-organizzazione. Lucy Parsons, che è una bel personaggio, la moglie di Albert Parsons, che è uno dei pionieri del primo maggio, dei martiri di Chicago nell'886. Lucy Parsons, dopo la morte del suo marito, ha continuato a militare, agitare, e scriveva: la carità non può liberare il popolo, esso deve farlo da sé. Un piccolo gruppo di rivoluzionari isolati non può agire in nome delle masse. Chi deve liberarsi deve battersi in prima persona. Una donna della stessa generazione, la bella Mother Jones, è quella? Gian Piero va a regalarmi il suo cappello domani. lei ha vissuto più di 100 anni e ha scritto le memorie a 100 anni, punto. Aveva sempre organizzato i minatori, i lavoratori precari in tutta l'America, aveva organizzato una crociata di bambini per rivendicare diritti, ha fatto delle cose incredibili, dove le memorie sono belle da leggere. Piccolo esempio, i minatori, per esempio, in America, altri paesi anche, vivevano sul posto, in case dei padroni, in caso di sciopero dovevano lasciare le case e tutto, in caso di lockout, e poi i padroni trovavano altri lavoratori per sostituirli. Allora, scrive Mother Jones, ho organizzato un'armata di donne. Al giorno stabilito dovevano uscire dalle case e darci dentro con le loro scope e i loro secchi d'acqua per scacciare i crumiri. Una donna irlandese ha preso il comando dell'armata. Batteva con un martello sopra una pentola e faceva paura ai muli che arrivavano coi crumiri e il carbone. Lo sceriffo tentò di calmarla, ma lei gli diede un colpo sulla testa con la padella e tutta la sua armata cominciò ad urlare. Lo sceriffo cadde nel ruscello, i muli si imbizzarrirono e i crumiri fuggirono. C'è un film un po' su questo argomento, Il sale della terra, Salt of the Earth, che è un bel esempio di che tutti gli uomini sono arrestati e le donne riprendono le manifestazioni, poi è veramente bello se avete l'occasione di vederlo, è filmato negli anni 50, è stato proibito negli Stati Uniti per propaganda comunista, non so che cosa.